Animati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Aspetta, è difficile, dai. E agghiacciate quello che dicono, e agghiacciate che è una capra respiratoria. Pensi che il calcio possa essere rotondo? E i ragazzi fanno la stessa cosa, vengono 7, 8 giorni, 9 giorni, cerchiamo di dare un'impronta alla squadra, cerchiamo di dare una mentalità, cerchiamo di dare dell'intensità in 7, 8, 9 giorni. Magari qualcuno storce pure il naso in quei 7, 8, 9 giorni. Io quello che sto lamentando è mancanza di considerazione nei confronti della nazionale. È chiaro, la nazionale viene vista come comunque un fastidio. Come un fastidio. Il prodotto sta andando in estinzione. A parole, facciamo di qua, facciamo di là, facciamo cosa? Facciamo cosa? Cosa? Che vogliamo fare? E ripeto, ve lo sto dicendo oggi, dopo 6 partite, 5 vittorie e un pareggio, 10 punti in classifica alla qualificazione europea. Ve lo sto dicendo oggi. Però inizio a stancarmi, a sentire, dobbiamo fare di qua, dobbiamo fare di là, faremo questo, faremo quell'altro. Io voglio i fatti. I fatti. I fatti. E agghiacciante. Evidentemente la sosta che lui si vede davanti è una sosta non di poco conto ed è comprensibile, bisognerà che parlarne con la Lega Maggiore per capire quali sono le prospettive per sostenere questa che sta riprendendo quota la nostra nazionale. Guardi che c'è un dato importante, 63.000 persone a San Siro, non è mica una roba di poco conto, vuol dire che la nazionale ha il suo appeal ancora, quindi noi lo appoggeremo sempre di più e certamente bisogna capire anche le società, però faremo di tutto. Assolutamente l'idea degli stage è quella più idonea, anche perché io credo che non si può stare oltre il mese senza incontrarli. Dopodiché saranno stage anche brevi, però credo che il mister abbia ragione. È difficile, però tenga presente una cosa, che le società con i marchi che noi diamo, se li chiamiamo così, della nazionale ai loro giocatori, li portiamo un valore aggiunto. E agghiacciante quello che dico. Non è una frase da Presidente del Consiglio questa, è una frase invece vera, seria, da cittadino, notare come il nuovo CT stia, come pure peraltro secondo me l'ha fatto Prandelli, dando un messaggio molto forte di utilizzo anche della nazionale per dare dei messaggi al paese. A me questo piace, e piace quello che ha detto Conte, piace molto, perché è vero, arrivi soltanto se metti un po' di sudore, di fatica, se ti metti in gioco, se non fai il viziato e anche se rischi di combattere qualche battaglia, non tutte le vincerai, ma questa è la cosa bella dell'Italia. Io penso che il rapporto tra i club e la nazionale sia perfetto, cioè, noi sappiamo quando dobbiamo rilasciare i giocatori, quando devono essere rilasciati, vengono rilasciati, se non sbaglio, negli ultimi 60 giorni, o negli ultimi 80 giorni, hanno fatto 50 giorni nel club e 30 nella nazionale, quindi di tempo la nazionale ne ha avuto parecchio con i giocatori a disposizione. Il rapporto con i club è sempre lo stesso, ci sono noi rispettiamo i regolamenti, ci sono delle date che sono ufficializzate dalla FIFA con largo anticipo, noi sappiamo che in queste date i giocatori devono essere rilasciati. Dall'altra parte non capisco quale sia la difficoltà nel rapporto con un club. Amen. L'ultimo che avete sentito è Andrea Agnelli, che ha parlato questa mattina dopo la bufera di Conte che abbiamo riproposto, dopo la difesa accorata di Tavecchio, quella del premier Renzi, è arrivata la dichiarazione tombale di Agnelli. Non capisco quale sia il problema, in tutta Europa è così, in tutto il mondo è così, non vedo quale sia la difficoltà, anche soprattutto rispetto al passato, o la difficoltà inedita, perché sono cose che Conte, come sottintende Agnelli, conosceva perfettamente quando ha inchiostrato quel preziosissimo contratto con la nazionale. Franco Piantaneda, il nostro autore, Roberto Scaltritti in regia, Daniele Buonamici in redazione. Abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, anche perché super puntatona. Stamattina è passato di qua a Radio 24 Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ospite della collega Anna Marino per Voci d'Impresa, ma è diventato anche Voce di Sport perché ci siamo intrufolati. E poi vi faremo sentire verso le, tra una mezz'oretta, che cosa ha detto su Tohir, su Mancini, sul momento dell'Inter, sulla voce del suo presunto ritorno che si è diffusa in questi giorni. Abbiamo parlato anche con Fabio Monti, che ne ha scritto l'altro giorno sul Corriere della Sera. Sentiremo cosa ha detto Ernesto Pellegrini. Avremo poi una intervista esclusiva con Thuram. Parleremo di Alonso, che ha detto addio alla Ferrari dopo 5 anni ufficiale. La Ferrari subito dopo ha annunciato Sebastian Vettel, anche in questo caso ufficiale, ed è così che si è aperto l'ultimo weekend dell'anno ad Abu Dhabi. Tutti convocati. Calcio d'angolo, il colpo di testa è piantato, arriva il vantaggio dell'Italia. Okaka ha portato sull'1-0 l'Italia al 37esimo del primo tempo. Debutto con gol, è un sogno anche quello di Stefano Okaka. A 8 minuti, a 7 minuti dalla fine, il gol di Stefano Okaka che bagna il debutto con una rete che potrebbe dare la vittoria alla nostra nazionale in questa amichevole non semplice contro una buonissima Albania. Il calcio in Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va? Molto bene. Ma... ho mandato un WhatsApp. Visto. Controlla, beh. Visto, grandissimo. Ma soprattutto saluto chi ha guidato l'Albania dalla panchina in una serata memorabile per un popolo intero. Gianni De Biasi, ciao, grazie. Ciao Carlo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, ciao Pier. Credo ciao, sia stata una grande emozione anche per te, no Gianni? In una serata memorabile per un popolo. Sì, una giornata memorabile perché è stata una giornata di festa, gli albanesi da sempre ambivano a giocare contro l'Italia, siamo riusciti a farlo in una amichevole, abbiamo portato un sacco di gente allo stadio, tantissimi albanesi, direi la maggior parte in assoluto, e questo credo che sia stato molto bello. Meno bello la vostra introduzione, mi è piaciuto decisamente meno, ma comunque non importa. Senti, ma sai che stai scendendo al secondo posto tra gli italiani più popolari in Albania, perché c'è la Ferilli che farà questo talk show, pensa alla cattiveria della gente, tu ti sei gustato il primo posto dell'uomo più popolare, ma è vero che fai lo spogliarello se vi qualificate? No, sto scherzando. Assolutamente no, queste sono cose che diceva lei qualche anno fa per qualcosa della Roma, credo, no? Sì. Senti, no, a parte tutto, l'altro giorno, prima della partita, si parlava di ordine pubblico e così, un po' buttandoci, avevamo detto che insomma ci sembrava un bel clima e ci sembrava e mi sembrava che la percezione dell'Italia che c'è in Albania è una percezione proprio di fratellanza e insomma che guardino a noi ancora comunque come un popolo particolarmente amico. Poi la sera è arrivata insomma la conferma, ci dici qualcosa di più sulla percezione del nostro paese lì? Beh, noi siamo visti, Pier, come la loro seconda nazionale, quando sono i mondiali, gli europei, gli albanesi tifano chiaramente per l'Italia, visto e considerato che noi non riusciamo mai a qualificarci con la nostra nazionale, e il calcio poi della domenica è seguito tantissimo, c'è la televisione a pagamento albanese che è poi sponsor della nazionale che fa vedere tutte le partite del campionato italiano. Visto che dici che siamo stati cattivi, ti faccio sentire un'altra cosa, Gianni. Pallone verticale per Rossi, in 10 il Portogallo, da lì è fuori. Prova uno contro uno, salta secco a Riccardo Costa, il cross in area per Balai! Che gol! L'Albania è in vantaggio con l'attaccante della Slavia Praga, con una meraviglia assoluta! 1-0 per Gianni De Biasi e per l'Albania. Fischia il pubblico, ma è un gol solo d'applausi. Piace di più questo? Finisce qui, finisce con la vittoria dell'Albania. Spiro albanese su Twitter, Mister De Biasi ormai uno di noi, tanti saluti a tutti voi dall'Albania. Gianni, non credo tu stia giocando alla PlayStation, no? Non ti abbiamo disturbato la partita? Non ci ho mai giocato nella mia vita, è uno dei passatempi che meno gradivo, sinceramente, anche perché ai miei tempi non c'era, sinceramente, però sì. Vedevo i miei calciatori perdere molto tempo in camera, invece di leggersi un buon libro o guardare qualcosa d'altro. perdere il tempo, secondo me, perdere il tempo con la PlayStation. Come fanno i nostri bambini, hai detto l'altro giorno in una dichiarazione che ha fatto discutere, ineccepibile peraltro. Ma ho visto che anche Antonio ci è andato dietro, Antonio Conte ci è andato dietro su quello che ho detto, e tra parentesi mi ha anche messaggiato dicendomi che era d'accordo in linea generale di principio su quello che dicevo. Sì, a Conte il censore, qualcuno potrebbe anche rispondere che non è che De Biasio e i suoi colleghi abbiano più tempo a disposizione per allenarsi, per costruire la squadra, per raggruppare giocatori da ogni angolo del pianeta. Si potrebbe rispondere che quelle cose si sanno quando si firma un contratto da commissario tecnico. Sì, lo so, però è un po' un problema che abbiamo tutti e che vorremmo avere sempre più tempo a disposizione per poter lavorare un po' più in profondità, però bisogna cercare di ottimizzare il tempo che abbiamo a disposizione, e che molto spesso ci arrivano i giocatori che hanno giocato la domenica sera, poi tu hai il lunedì, martedì, mercoledì, ma hai giochi giovedì, il primo giorno non fai niente, il secondo fai qualcosa, fai pochissimo, e mercoledì cominci a lavorare, però poi il giorno dopo è la partita, capisci? Sono sempre tempi molto ristretti, capisco che per la maggior parte dei non addetti ai lavori o che lavorano in profondità, queste cose scivolano via, capisco lo sfogo, ma bisogna cercare di adattarsi. Senti, l'altra sera abbiamo mostrato il video difensivo, ovviamente l'ho visto. Ecco, è un punto di vista di parte, l'ho ricordato in quella diretta, lo ricordo anche adesso per un discorso ovviamente di onestà intellettuale, però anche se è un video di parte, però insomma, un video abbastanza indicativo di tutta una serie di provocazioni che sono accadute. A che punto siamo lì? Ci racconti un po' l'iter, ovviamente mi riferisco a Serbia-Albania, sì. Sapete, insomma, il 3-0 al tavolino con i 3 punti tolti alla Serbia, e in questo video, per chi non l'avesse visto, insomma, si mostrava che prima dell'arrivo della famosa bandiera del Grande Kosovo, che poi ha iniziato la rissa, comunque c'erano già state provocazioni in serie, e che insomma il clima allo stadio era tutt'altro che pacifico. Sì, tutt'altro che pacifico, non c'erano le condizioni secondo me per giocare una partita con grande serenità, e credo che la condizione sine qua non per giocare una partita sia quella di che tutte e due le squadre siano messe nella condizione di paritetica di poter esprimersi. Per noi oltre ai lanci di tutto e di più, non mi riferisco neanche a tutte le invettive contro lo sterminio del popolo albanese, tutte queste cose qua, i fischi sull'inno, tutte queste cose sono una cosa che voglio trascurare, ma i lanci di petardi, di tutto, guarda, pietre e quant'altro, e poi con la facilità della gente di entrare in campo, era una roba veramente molto pericolosa secondo me. Io ho solo ipotizzo il fatto che noi potessimo aver fatto gol nelle due occasioni limpide che abbiamo avuto, e purtroppo abbiamo messo fuori, e una l'ha parata il portiere. Se facciamo gol, io credo che forse arrivava dentro più gente ancora. Tu hai avuto paura? È abbastanza, specialmente quando eravamo negli spogliatoi, perché non avevo la percezione di cosa potesse accadere fuori. E avevo paura proprio di sentire arrivare la fiumata umana che buttava giù tutto e che entrava negli spogliatoi. Sarebbe un peccato però per l'Albania, che sta giocando su un'occasione storica, no Gian? Sì. E questa è la cosa che veramente mi lascia lì allibito, perché credo che sia la decisione dell'UEFA una decisione sbagliata, secondo me non valutata a fondo, e credo che nel prossimo grado di giudizio, al limite al terzo grado di giudizio, credo che noi possiamo avere quella giustizia che secondo me manca in questo momento. Senti, stiamo assistendo alla nascita di nazionali emergenti, tra cui appunto la tua, nazionali tutte di paesi esportatori di giocatori. Sì, c'è un po' di... c'è voglia di mettersi in mostra, credo che ci sia una grande motivazione alla base. È chiaro che il nostro è un paese piccolo, e quindi i numeri sono relativamente esigui, però abbiamo la forza con la maggior parte degli albanesi che sono andati via dall'Albania 20 anni fa, e se abbiamo la possibilità magari di portarne qualcuno con noi, sicuramente abbiamo un aumento della di qualità da parte del gruppo no. Un'ultima cosa per quanto mi riguarda, nostra nazionale si dice una nazionale senza talento, è il caso di trarne conclusioni epocali, pochi giocatori, pochi talenti, poca produzione, denuncia Conte, eppure siamo un paese di 60 milioni di abitanti, e adesso guardiamo la Croazia con invidia, ed è un paese molto più piccolo, con un bacino d'utenza con meno. Allora, che cosa succede al calcio italiano? Non credo sia solo una questione di PlayStation. Carlo, per portarci alla realtà, io credo che nell'82, quando l'Italia è partita per il mondiale di Spagna, fossimo i più forti al mondo, quando abbiamo affrontato il Brasile, forse li abbiamo battuti proprio perché noi ci siamo sentiti inferiori a loro da un certo punto di vista tecnico, però dal punto di vista dell'intelligenza, del capire i nostri limiti, su quello forse abbiamo lavorato bene, aveva lavorato bene Berzot nel plasmare una squadra che aveva un cuore. L'importante secondo me è metterci la parte anche del sentimento quando si entra in campo, non sia solo dei numeri o non sia solo degli attori, bisogna cercare di tirare fuori qualcosa in più e di provare a correre dal punto di vista fisico anche un po' più degli altri. Pierluigi, vuoi un'ultima domanda? Sì, che sensazione ti ha fatto l'Italia? È chiaro che quella dell'altro giorno era una squadra comunque sperimentale, sai meglio di noi che le amichevoli in Italia vengono viste spesso come una perdita di tempo, comunque insomma come qualcosa nel quale non c'è grande adrenalina, però insomma è arrivato il momento di fare un primo bilancio della gestione Conte. Che sensazioni hai? Ma Pier, io credo che Conte stia lavorando bene, non ha sicuramente un parco giocatori di primo livello, l'abbiamo visto l'altra sera a San Siro contro la Croazia ha giocatori di qualità che giocano per dire in mezzo al campo, giocano a Real Madrid e a Barcellona, credo che però lui sia sulla strada giusta e che vuole cercare di cambiare proprio la mentalità, per far questo ha bisogno di tempo, non si cambia dalla sera alla mattina, però credo che dando seguito alla sua filosofia di lavoro si possa andare un po' più lontano di quanto noi pensiamo. Grazie Gianni, in bocca al lupo. Ciao Gianni. Allora, noi abbiamo la borsa, poi torniamo naturalmente anche con voi, 800 24 00 24, il numero verde. Intanto vorrei poi chiedere a Pardo una sua opinione su queste parole di Andrea Agnelli che abbiamo fatto sentire, magari le riproponiamo, di questa mattina quando c'è stata la cerimonia di presentazione di due giovani nuovi acquisti da parte della Juventus. Buffon, contratto fino al 2017, terminerà quando avrà 39 anni, e sempre per la linea verde Chiellini, contratto fino al 2018, scadenza quando ne avrà 34. A dopo. Il prodotto sta andando in estinzione. A parole, facciamo di qua, facciamo di là, facciamo cosa? Facciamo cosa? Cosa? Tutti convocati. Penso che il rapporto tra il club e la nazionale sia perfetto, cioè, noi sappiamo quando dobbiamo rilasciare i giocatori, quando devono essere rilasciati, vengono rilasciati, se non sbaglio, negli ultimi 60 giorni o negli ultimi 80 giorni, hanno fatto 50 giorni nel club e 30 la nazionale, quindi devo dire che di tempo la nazionale ne ha avuto parecchio con i giocatori a disposizione, e il rapporto con i club è sempre lo stesso, ci sono noi rispettiamo i regolamenti, ci sono delle date che sono ufficializzate dalla FIFA con largo anticipo, noi sappiamo che in queste date i giocatori devono essere rilasciati. Dall'altra parte non capisco quale sia la difficoltà di un rapporto con un club. E queste le parole di oggi di Conte, dopo, come scrive un ascoltatore, io anche se juventino non gradisco Conte in versione Masaniello, e questa è la risposta di Agnelli di questa mattina, e prevedo, non ci vuole molto, caro Pierluigi, a prevedere una bella battaglia tra la Juventus e Conte nei mesi a venire, Sì, forse diciamo che la causa, il motivo occasionale di un addio che non è stato clamorosamente sereno, diciamo così, insomma, al di là, non sarei a romanzare più di tanto, diciamo, non sono i peggiori nemici sicuramente la Juve e Conte in questo momento, però poteva anche finire meglio, non c'è dubbio. Ma secondo te ha ragione Agnelli nel dire queste cose, cioè dire ma non vedo qual è il problema, in tutto il mondo è così e ci sono delle date precise. Sì, ha ragione, alla sua sostanza ha ragione Conte, secondo me, nel senso che la nazionale certamente vive dei ritagli di tempo, anche se poi il ragionamento 50 giorni a 30 giorni in questo momento dell'anno è un ragionamento che ha una sua logica, perché ci sono state le partite. Se prendiamo i prossimi 60 giorni, sono 60 giorni ovviamente solo di club, è pure vero che i club pagano i calciatori, le nazionali no, si va in nazionale per spirito di patria, diciamo. Se ti fai male in nazionale, al di là del risarcimento delle assicurazioni, dal punto di vista tecnico il danno è un danno enorme per i club, quindi da questo punto di vista è ovvio che i club abbiano più di un motivo, e questo spiega il fatto che, però insomma, dipende come la vuoi vedere. Dal punto di vista di Conte, certamente Conte non ha la possibilità di allenare i giocatori come vorrebbe, però è anche vero che lo sapeva, insomma, è chiaro, in qualche misura, è chiaro, no? Ma lo sa lui, ma vale anche per tutti gli altri suoi colleghi, vale anche per lui che è campione del mondo, eh. Non è che vale, cioè, non è solo una spiga di Conte, è una questione. Appunto, però vale, insomma, per siccome io ti dico, Conte è un combattente, Conte è un soldato, Conte è un martello, quindi fa tutto quello che può fare in campo e fuori con queste conferenze stampa per portare acqua al suo mulino, per uh-huh. far sì che ci possa essere qualche beneficio per la squadra che segue in questo momento. Uh-huh. Il famoso discorso di quando si parlò della Puma, no? Sì. E io mi rifiutavo di pensare anche soltanto lontanamente che potesse esserci un potere di condizionamento dello sponsor tecnico, perché lo conosco un po' Conte. Conte è uno che pensa giustamente soltanto a se stesso e al lavoro della nazionale e all'obiettivo che deve portare a casa, uh-huh. che in questo momento per la cronaca coincide con quello di 56 milioni di italiani, quindi sì. È chiaro che lui fa questo, e anche le dichiarazioni dell'altro giorno erano un modo per dare una strigliata e per cercare di ottenere qualcosa che possa essere utile alla sua nazionale in termini di tempo, in termini di disponibilità e di impegno da parte dei singoli calciatori. Alessio da Terni, buongiorno. Buongiorno. Tifoso di chi? Convocazione. Come? Per chi fa il tifo? Per la Ternana. C'è il derby, C'è il derby. Appunto, io volevo parlare proprio del derby e fare una piccola considerazione. Dal momento che, dopo gli scontri, diciamo, quello che è successo a San Siro e gli 11.000 albanesi a Genova, com'è possibile che a Terni l'ufficialità dei biglietti è arrivata solo ieri, del numero dei biglietti, l'obbligo della tessera del tifoso della Ternana e l'obbligo di recarsi a Perugia solo ed esclusivamente in pullman, per lo più scortati per tutto il tragitto. Allora, com'è possibile che accadano situazioni di questo genere, totalmente diverse ma all'interno dello stesso paese? Io comincerei a levare gli albanesi, che non erano 11.000 ma molti di più, e non è successo nulla, quindi comincerei a levare quella cosa lì. Lei mi dice com'è possibile che gli ultra croati vengano qui e facciano casino mentre per andare a Perugia, vabbè, ma credo che ci siano delle storie pregresse che suggeriscono particolari cautele di ordine pubblico, e bisogna dire, queste sono le regole, no? Sì, io dico questo, che probabilmente ci saranno delle discrepanze fra una partita e l'altra, fra una situazione e l'altra. Io adesso non conosco nello specifico tutta la storia, tutto lo storico di tutti i provvedimenti, certo. Però qui la cosa più importante è un'altra, cioè se anche poi alla fine c'è qualche limitazione eccessiva dello stato di diritto, è un problema, perché non è che non sia un problema, però la cosa più importante è che nessuno si faccia male, me lo faccia dire. Quindi purtroppo siamo in una condizione nella quale dobbiamo ragionare così, perché quello che lei dice è giustissimo, cioè in un mondo normale, in un mondo perfetto, ma perché io, se sono un tifoso della Ternana e voglio andare a Perugia e magari ci vado con i miei figli e non voglio fare la trasferta sul pullman, voglio andare in macchina perché poi magari mi fermo a mangiare gli strangozzi, cioè voglio dire, perché non lo posso fare? Quindi questo è purtroppo una limitazione della libertà individuale che è una sconfitta per tutti, lo è da sempre. Come però, è un valore assoluto la tessera del tifoso, siamo dell'emergenza, siamo l'emergenza, sogniamo fra 10 anni, fra 20 anni, fra 30 anni, i figli, i nipoti, di potergli consegnare un calcio dove questo problema non ci sarà, dove il signore di Terni sarà liberissimo di organizzare la trasferta all'ultimo momento, senza il biglietto nominativo, senza essere schedato, senza essere chiuso nel settore ospiti, a dover aspettare 2 ore dopo la fine della partita per poter uscire. Lo sappiamo, sono situazioni che limitano lo stato di diritto, non sto facendo 0-0, sono situazioni gravi, però la cosa più importante, mi dica lei qual è, la cosa più importante per me è che sabato sera si torni a casa con qualsiasi risultato, Perugini e Ternani, e sì. Nessuno ci abbia nemmeno un'unghia screpolata. Se poi uno dice non mi va di assoggettarmi a tutte queste pratiche, e dice la partita non la vado a vedere, la guardo in TV, la guardo su internet in un'altra maniera, secondo me ha pure ragione. Sì, però è una doppia sconfitta. Lo so, Pier, uomo di televisione, so. Fammelo dire, è una doppia sconfitta. Lo so perfettamente, però io capisco benissimo che mi dice: no, io mio figlio non faccio schedare, non lo faccio salire sul pullman scortato dalla polizia, abbi pazienza. Quindi non, se uno la pensa in questa maniera, secondo me è saggio. Giuseppe, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Dica. Per la trasmissione. Volevo parlare sul discorso di Conte. Cioè, io penso sempre che Conte sia stato messo lì è perché ha scelto sia Taveggio che gli altri presidenti, e quindi avevano un intento, cioè avevano un compito da dare a Conte, di sollevare quello che è la situazione del mercato del calcio, sì, nostro in questo momento. Quindi paragonare in questo momento la nostra nazionale alle nazionali in alto di tutta Europa mi sembra un po' non giusto, perché noi dobbiamo risalire dal fatto che il nostro calcio ha perso, che comunque siamo in una situazione, e di conseguenza Conte è stato scelto per raggiungere questo motivo. Certo. Oltretutto io sono un tifoso dell'Atalanta, quindi no, e come diceva lei, la maggior parte dei tifosi gli era antipatico Conte, invece adesso sentendo parlare o al paro così è una persona che piace, forse perché dà la grinta. Ah, sì, ma perché è grintoso, vincente, è uno che se lo vedi da avversario ti ci venga a dire il signor Agnelli, ma c'è. Allora, innanzitutto in un io non me ne intendo molto di calcio, ma in un club il gioco è quello, i giocatori sono quelli. Invece per quanto riguarda l'allenatore della nazionale deve mettere insieme il puzzle, quindi che ci vogliono. Ho capito, Giuseppe, però cioè, esatto. Le regole valgono per tutti i club di tutta Europa, per tutte le nazionali di tutta Europa, quindi Agnelli dice non vedo qual è il problema, è così, le regole sono queste per noi come all'estero, come in tutti gli altri paesi, e quindi non ci sono altri spazi, altri margini di manovra, perché la situazione è la stessa per tutti quanti. Ci fermiamo per il traffico e poi sentiamo che cosa ci ha detto stamattina l'ex presidentissimo dell'Inter, Ernesto Pellegrini. Convocati. Allora, ripeto, questa mattina è passato di qui il sure Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ospite di Anna Marino e delle sue voci d'impresa. Naturalmente abbiamo approfittato dell'occasione, gliel'abbiamo rubato per qualche istante per capire qual è la situazione con Toir, se è vero che rientrerà nell'Inter, come è stato detto e scritto. Cosa ne pensa di Mancini e come sta alla vigilia del derby? Pellegrini, Ernesto con noi. No, ecco, non tengo a chiarire che Toir non mi ha chiesto proprio niente, né io ho fatto delle avance nei suoi confronti. Ho un ottimo rapporto con Toir perché è un ragazzo, posso dire, scusami Eric, ma nei miei confronti lo sei, semplice, coi piedi per terra, che ha entusiasmo, che ha passione, si è buttato in un'avventura qualcuno dice non capisco il perché sia venuto qui in Italia, eccetera. Beh, insomma, ha avuto coraggio. Questo coraggio io spero che venga premiato, perché lui ci metterà tutta la volontà. C'è qualcuno che dice sì, ma bisogna metterci anche dei soldi. Piano piano, a fin dei conti è qui da un anno e mezzo praticamente, quindi diamogli tempo al tempo. Certo. Io ci credo. No, io volevo chiederle cosa ne pensa anche del, siamo alle porte del derby, cosa ne pensa del cambio di panchina. Ma guardi, io non sono addentro al mondo del calcio, né tantomeno all'Inter, anche se la mia azienda continua da qualche lustro a gestire il ristorante della Pinetina. Tuttavia mi è difficile un po' giudicare. Certo, Mazzari è sicuramente un ottimo allenatore, non è stato molto fortunato qui all'Inter. Mancini invece ha già dato delle risposte, ha già vinto qui all'Inter, quindi ha l'affetto di tutti i tifosi, costituisce sicuramente una grande speranza non solo per il derby di domenica ma anche per il prosieguo del campionato. È difficile perché il Milan io trovo una gran bella squadra, non conosco il suo allenatore, però i giocatori presi uno per uno fanno paura, insomma, nel senso sportivo, se ben inteso, no? Ma poi i derby sono sempre imprevedibili, e solitamente il favorito non vince mai, è l'altra squadra che vince, chi lo sa. Non ho ancora letto, non ho ancora sentito chi è il favorito di domenica. Io non mi pronuncio. Allora Pierluigi, vuoi sapere chi è il favorito di domenica? Dimmelo. L'Inter. Ma l'Inter perché è figo dirlo in questo momento, perché il cambio dell'allenatore, no? È come quando tutte le volte prima di un calcio di rigore c'è sempre quello che ti dice lo sbaglia. Si vede che lo sbaglia, non c'è una. Se stai vedendo una partita con 10 persone e c'è un calcio di rigore c'era sempre quello che dice lo sbaglia, perché poi se indovini fai il figo, no? Perché sei condizionato da questo tipo di sensazione. È chiaro che l'effetto psicologico c'è, e secondo me non è stato nemmeno l'ultimo, forse il penultimo, il terzultimo, ma non è stato l'ultimo dei pensieri di Tohir, che voleva dare una scossa anche da questo punto di vista. Quindi io penso che non sia un elemento marginale questo. Certo, tecnicamente. la partita alla pari, sono due squadre imperfette, sono due squadre che hanno delle cose interessanti ma che sono ancora distanti secondo me dall'essere completamente compiute, certo. E non si può pensare che Mancini in pochi giorni riesca a risolvere, però dal punto di vista psicologico io penso che un beneficio ci sarà, quindi fatico dire Inter e ti dico Inter, ma comunque, ma non ci credi più di tanto, insomma, no, è grande equilibrio. Comunque Ernesto Pellegrini spegne le voci che dicevano pronto a tornare magari alla guida di una cordata di imprenditore milanese, ha detto no, guarda, ho già dato, ho ricevuto meno di quanto ho dato, ma ho già dato. E d'altra parte leggi anche questa mezza intervista oggi a Moratti, estrapolata, mi ha chiamato per dirmi che non era vero, è stato carino, dice Moratti su Pellegrini. Poi per quanto riguarda Mancini, sempre in questa mezza intervista leggi Moratti che dice io l'ho detto a Tohir, servono o Mancini o Leonardo. Leggi Juan Jesus, intervista su Repubblica, i fischi partivano sempre dalla tribuna rossa. Zanetti che dice il cambio di panchina era grossomodo inevitabile, è tornata la Pinettina dopo la cacciata di Mazzarri. E ad essere maliziosi puoi anche capire qual era il cuore dell'antimazzarresimo Mazzarri, degli antimazzariani, insomma. Sì. No. Sì, sì, ma insomma, dai, che ci sia stata una. Che ci sia stata quantomeno un via libera della società, cioè il livello di critica nei confronti di Mazzarri, l'abbiamo detto, è stato eccessivo, è stato clamoroso, è andato oltre i risultati. Secondo me l'aspetto di comunicazione non è un dettaglio, per cui oggi nel mondo di oggi un allenatore non è soltanto quello che allena e spiega il 4-4-2 in campo, ma è anche quello che parla con i giornalisti, è quello che parla con i dirigenti, è quello che sa come muovere certe leve psicologiche all'interno della squadra. Mazzarri deve saper fare anche questo se vuole essere un allenatore da grandissima squadra, e sicuramente all'Inter lui questo tipo di meccanismo non ha funzionato, c'è poco da fare, quindi c'è stato questo elemento. Certo, una società completamente compatta, completamente unita e completamente dalla sua parte, forse certi eccessi li avrebbe saputi prevenire da parte del pubblico. Il pubblico è vero che è libero di esprimere, non è che c'è il fischiometro per cui se stai fischiando ti cacciano, però è chiaro che c'è stato un certo tipo di clima, e questo tipo di clima, insomma, se la società fosse stata veramente molto sicura di Mazzarri e molto allineata con lui, avrebbe fatto di tutto per stemperarlo sul nascere. Certo. Non è stato così, tanto è vero che poi ha scelto Mancini, quindi forse nemmeno loro ci credevano più di tanto. Poi sicuramente l'avevamo anche sottolineata noi a Sport Media, se c'era questa anomalia che i fischi arrivavano più dalla tribuna che per esempio dalla curva nord. Dalla curva mai. Era stato dichiarato stiamo con Mazzarri perché l'ha scelto la società, stiamo con la società, questo è sempre stato l'atteggiamento della curva. Grazie Pier, ci sentiamo domani? Ma guarda, se vuoi io faccio pure un altro quarto d'ora. Come no? Sì, allora, ci sentiamo tra poco. Ciao. Sentiamo dopo. quote e pronostici. Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei più importanti appuntamenti calcistici del weekend di calcio internazionale. In Premier League, impegno casalingo per il Chelsea che gioca sabato alle 16 contro il West Brom. Vediamo le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dei Blues, è quotata 1,20, l'X è a 6. Il 2 invece, con il successo del West Brom, è quotato 15. City impegnato in casa contro lo Swansea, 1, con la vittoria dei Citizen, quotata 1,35, X a 4,75, 2 invece, quotato 9. Gara da seguire quella tra Everton e West Ham, 1 con la vittoria della squadra di Samuel Eto'o, quotata 1,75, X a 3,65, 2 invece, quotato 4,50. Nella Liga sabato alle 16 si gioca Atletico Madrid-Malaga, 1 quotato 1,43, X a 4,25, 2 invece, quotato 7,50. Impegno esterno sabato alle 18 per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che gioca sul campo dell'Eibar, 1 quotato 13, X a 6,50, 2 invece con la vittoria delle Merengues, quotata 1,20. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Allora, già tutto previsto, ma da questa mattina ufficiale l'addio dopo 5 anni di Fernando Alonso alla Ferrari, una decisione difficile ma allo stesso tempo molto ragionata, sulla quale dall'inizio alla fine ha prevalso il mio amore per la rossa, ha detto Alonso. Ufficiale l'arrivo di Sebastian Vettel, 4 volte campione del mondo alla Ferrari, grande entusiasmo quando ero ragazzino, Michael Schumacher sulla rossa, era il mio più grande idolo e ora per me è un enorme onore avere la possibilità di guidare questa macchina, dice Vettel. Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera da Abu Dhabi, che dice invece? Ciao Flavio. Ciao a tutti. Dico che alla fine effettivamente una delle parole chiave per spiegare quello che è successo stamattina è proprio amore. Fernando ha giurato di averlo ancora per la rossa. Vettel non ci vuole molto a capire che proprio era una cosa che aspettava di fare al più presto. L'ha svelato anche nei dettagli, probabilmente ci sono state anche delle chiacchiere nel passato con Michael Schumacher che l'hanno persuaso per l'opportunità di questo genere. E quindi la seconda parola chiave diventa motivazione. Fernando ha ammesso di non averne più e che questa mancanza di motivazione risaliva già al 2013, sinceramente l'avevamo capito, e invece Vettel ha ammesso di averne a tonnellate, che questo è una delle cose che porterà dalla Red Bull forse più di quel know-how tecnico e di metodologia di lavoro che comunque peraltro benvenuto e atteso al cavallino. Mi pare che in conferenza stampa questa mattina Schumacher abbia detto anche, diciamo Schumacher, Alonso abbia detto anche, no, Alonso abbia detto anche, questa stagione non c'è stata grande sintonia, molte volte non sono stato d'accordo con le decisioni dei box, anzi forse non lo sono stato quasi mai. Ma sì, poi l'aveva anche detto ieri con un tweet nel quale sottolineava che insomma in maniera un po', come dire, oserei dire anche irridente, ma spiritosa, mettiamolo così, per non dargli addosso più di tanto, che c'è stata una sorta di, come dire, sinergia tra lui e la macchina, quindi nel senso che nel non avere risultati lui ci ha messo tanto, però poi la macchina non l'ha secondato, poi forse voleva anche dire che magari avrebbe potuto anche fare qualcosa di più lui, però sinceramente su questo fronte credo che abbia veramente dato il massimo, perché i punti che ha la Ferrari che permettono alla Rossa di essere ancora in lista, di difendersi questo quarto posto nel campionato costruttori, sono fondamentalmente frutto del mulino di Fernando. Anche Kimi Raikkonen quest'anno non ha avuto una buona stagione. Grazie Flavio, buon lavoro laggiù. Grazie a voi. Grazie a Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera. Profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare, sento che sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Cassano, buono l'aggancio, destro di Cassano, rete! Palomo. rombo, Cassano deve uscire dal fuorigioco, il tocco su Mannini, vai dentro, 1-0 Maria, Pozzini! Pozzini! Sotto la sud, sull'errore di Sant'Anna, sì, grande reattività blu cerchiata. Ovviamente la Sampdoria, sono molto grato, quindi io... a quella società, ripeto, a quei dirigenti, a quei tifosi mi hanno dato tanto, quindi sicuramente resteranno sempre una parte di me. È colpa del mare, del cielo e del mare. Occhio alla battuta dentro a cercare Lazzi, poi Cassano! Poi la conclusione, gol! 1-0 Samp, Peter Pan! Bella apertura per Mannini, Tadei è rimasto davanti, Mannini butta Curtisso. Doppio passo di Mannini, palo sul sinistro, Costinare, Pazzini, Pazzini, la Sampdoria in vantaggio. Ma è vero che sei tu la sorpresa di Ferrero? È un po' di giorni che Ferrero dice... Che porta... quella la Nutella? No, quella della Sampdoria. Che per noi non finirà. E se davvero fosse così, Pierluigi Pardo? Cassano Pazzini, no, Lobot eri piccolo, eri veramente piccolo quando c'era Lobot. No, ma io vedevo la Bolt, La Bolt lo vedevo, Mary Tyler Moore, te lo ricordi Mary Tyler Moore? Mary Tyler, no. Era un, sì, era un telefilm sbrigatissimo, però era ambientato in una redazione a Filadelfia, di un giornale, e poi c'era, poi c'erano i Bradford, Arnold e Willis, che mi piacevano molto, poi c'erano i Jefferson, che sono i miei preferiti, anche più di Robinson, so di essere impopolare, no, anche Robinson... sono d'accordo su questo, Jefferson numero uno, sì. George Jefferson. What are we talking about? Ma non è che ho detto tutto questo perché non ti voglio rispondere, no. A parte tutto, non so, non ho notizie freschissime e credo che insomma non. Regali in arrivo per Mihailo. Allora, l'anno scorso è successo che c'è stata realmente un interesse della Samp. Poi Mihailovic ha scelto un attaccante con caratteristiche diverse, mi riferisco ovviamente a gennaio. E da quello che so Antonio sta benissimo a Parma, questo è fuori di discussione. Parma però ha tanti Pazzini, problemi. Pazzini non credo sia benissimo più a Milan, perché veramente è l'ultimo delle scelte e non credo che se lo meriti, francamente. Beh, io credo però, allora Cassano a Parma starà benissimo, però il Parma ma è in un mare di guai, giusto per rimanere nel tema del sole e del mare. Sole pochino, guai un mare a Parma. A Milano si legge oggi questo ipotetico possibile scambio Pazzini o Caca. Chiaro che Pazzini a Milano, l'ha detto anche la sua signora, benissimo non sta, perché di campo ne trova davvero poco, quindi non è una cosa così fantascientifica questa opzione. Naturalmente, se davvero Mihailovic avesse questa idea, questa intenzione. Guarda, lunedì lo chiediamo a Tiki-Taka, al presidente Ferrero. Ma a parte questo, io penso che in assoluto ci sta. È un tipo di scenario che ci può stare, insomma. Cassano non ha mai nascosto di essere molto legato alla Sampdoria, Pazzini comunque a Genova è stato bene, fra l'altro secondo me non è un caso che le cose migliori le abbiano fatte insieme, perché Cassano è uno straordinario uomo assist e Pazzini è uno straordinario finalizzatore, quindi al di là del feeling e di un buon rapporto anche fuori dal campo, però ci sono proprio caratteristiche tecniche che chiamano per farle giocare totalmente. E poi sarebbe, insomma, noi che amiamo il calcio romantico, sarebbe una bellissima storia. Però detto questo, io credo e auguro ovviamente al Parma di risolvere tutti i suoi problemi e comunque una svolta in un senso o nell'altro io penso che ci sarà prima di Natale, beh, no? Sì, quindi per forza. Quindi se c'è una svolta invece positiva, il Parma secondo me avrà le spalle larghe per tenersi Cassano, che comunque è un ingaggio abbastanza pesante. Se non dovesse esserci questa soluzione, magari si aprono nuovi scenari, certo. E quello potrebbe essere uno dei più plausibili. Senta, invece, allora, come ha trascinato lei la Sampdoria così in alto? Si è svegliato. Pensiero positivo sempre. Se la ricorda? No, la canzone del grandissimo Giovanotti, non lo so, però io penso positivo perché sono Doria, perché sono nel del sempre. No, facciamo qualcosa. Dai, facciamolo però, se no veramente. Quindi lunedì a Tiki Taka Ferrero romperà il silenzio stampa, che poi non ho capito se c'è stato, non c'è stato, eccetera. No, no, ma no. Invece Crozza, silenzio stampa, non ci va mai. Mai. Fate le due risate, li vedete tutti seri. Mauro Alessandria, buongiorno. Pronto, buongiorno. Grazie della convocazione. Grazie a lei, dica. Io cado a fagiolo perché sono milanista e volevo fare solo una domanda velocissima. Cosa ha fatto di male Pazzini? Cioè, un inciso, avesse davanti Van Basten o un grandissimo centravanti, capisco, ma sono due anni che davanti non ha nessuno. Tutto lì, la domanda è solo questa, perché ha fatto benissimo con El Shaarawy quando poteva giocare. Sì, adesso ha davanti, l'unica figurina del mercato estivo del Milan, Fernando Torres, e il Milan gioca meglio quando invece davanti non c'è nessuno. Sì, però c'è da dire che anche quando Torres è partito dalla panchina non è che ha giocato Pazzini. No. Cioè Pazzini è stato veramente sempre... l'ultimo, diciamocelo apertamente, è un brutto l'ultimo aggettivo, nella, però l'ultimo della rotazione, questo è oggettivo. Ed è strano, insomma, poi io ripeto, Pazzini c'è un buon rapporto personale e lo stimo come calciatore e come persona, quindi guardo con simpatia e penso che quello che ha fatto in questi anni sia sotto gli occhi di tutti. Mi sembra difficile, mi fido di Inzaghi, cioè non penso che Inzaghi abbia una preclusione personale nei confronti di Pazzini, però poi è strano perché insomma voglio dire, tu parli di uno che ha fatto 316 gol in carriera, no? Sì, ha segnato da tutte le parti e non ha mai avuto, però salvo le stagioni sandoriane che abbiamo ricordato, non ha mai avuto le chiavi dell'attacco di una squadra. No, io adesso parlo di Inzaghi, no? Di un allenatore che ha fatto 316 gol in carriera, sì. E che poi arriva così a fare una scelta di tipo diverso, a giocare addirittura delle volte senza attaccanti. È strano, è francamente strano, insomma, c'è poco da discutere. Detto questo, avrà i suoi buoni motivi, anche qui io non penso che Inzaghi tenga Pazzini completamente ai margini, così andando contro se stesso per un fatto di puntiglio personale, no, che mi sfugge pure, anche perché mi risulta i rapporti umani siano buoni. Pazzini credo che giustamente debba andare a cominciare giocare, a guardarsi attorno, no? Ecco, su questo non ci sono dubbi. Franco Cosenza, buongiorno. Sì, sono Franco di Potenza, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la convocazione. Volevo intervenire per Conte, per la nazionale, perché io ho vissuto 33 anni in Germania e non è vero quello che ho sentito prima, che gli stage per tutte le nazionali non ci sono, perché in Germania ci sono, perché loro fanno una pausa di inverno e lì ci sono i stage. Per questo capisco Conte completamente, che vorrebbe più la disponibilità dei giocatori. Poi vediamo se i giocatori sono disponibili. In Germania c'è una sosta molto lunga d'inverno, poi vediamo se i giocatori in quelle due settimane di vacanza che hanno sono disposti ad andare a lavorare con Conte piuttosto che ad andare a New York o alle Maldive, cosa della quale mi permetto di dubitare. Pierluigi, oggi leggo anche di questa in prospettiva derby, di questa suggestione di Galliani. C'è Pallotta che avrebbe voluto giocare al Circo Massimo, mentre Galliani vorrebbe i super derby. Rappresentativa Milan-Inter, cioè rappresentativa milanese contro rappresentative, quindi miste, delle grandi città che hanno grandi squadre. Milano-Manchester, Milano-Real Madrid, Milano-Madrid. Capisco, sembra fantascienza, però in questo momento di vacche magre anche la fantasia può avere diritto di cittadinanza. No, io sul discorso del Colosseo, in realtà nel Colosseo poi diventare il Circo Massimo di Pallotta, sono assolutamente favorevole, lo dico proprio a costo di beccarmi i fischi. Sì. con tutte chiaramente le accortezze del caso, magari con un pubblico selezionato, non è che lì puoi fare un derby o una partita ad alto rischio, però una grande esibizione con 1000 biglietti soltanto che vendi alle aziende a 1000 euro l'uno, con i diritti televisivi che vendi in tutto il mondo, per il fatto di giocare una partita in un ambiente del genere, in uno scenario del genere, ma perché no, sinceramente, soprattutto se poi c'è una finalità, oltre chiaramente alle casse, in questo caso della Roma, c'è una finalità anche sociale, che può essere quella di sostenere i beni culturali. Cioè io sono dell'idea che a me non piacciono gli steccati, no, quelli ideologici, per cui quel luogo lì è sacro, non bisogna toccare. No, bisogna farlo vivere. Se io nel mondo posso mostrare, generale l'immagine. Certo che lo sanno che esiste il Colosseo, il Circo Massimo, non è che non lo sanno, però comunque un evento di un certo tipo finisce per dare nuova visibilità e nuova immagine a certi monumenti e quindi anche alle città. Qui è un'altra idea, diciamo, che sembra folle sicuramente, perché uno dei criteri fondamentali del calcio è la rivalità e quindi mettere insieme a giocare realtà rivali è un discorso abbastanza assurdo. Detto questo, diciamo che ha più senso delle fusioni di cui parlava Raiola, sì, o della vecchia fusione. Non sarebbe fusione, sarebbe semplicemente una rappresentativa. Nel 2015 c'è la voglia di vedere che è un'estate, insomma, senza confederation, senza mondiali, senza europei, si può fare un torneo basato su un concetto nuovo, magari con le 8 città principali d'Europa che si mescolano i giocatori, perché no? Magari ci sono delle televisioni che se li comprano, noi ci vediamo un po' di partite stuzzicanti. È già successo in alcuni, nel passato, non mi sembra una cosa così blasfema o più blasfema di quei tornei che fanno in America d'estate con tutte le grandi squadre che arrivano lì all'inizio della preparazione. Cioè, tutto ciò che può essere utile per fare denaro, non è che a me piaccia questo sistema, se vuoi poi un giorno chiamiamo Barisoni, chiamiamo Berinazzo e facciamo nella radio di Confindustria, chiamiamo pure Parenzo, facciamo una discussione sul mercato, il valore del mercato, se sia giusto, quanto lo Stato deve pesare rispetto invece all'economia delle singole aziende, è un discorso complesso. Il mercato ha mille storture e crea mille casini. Detto questo, è il sistema che c'è oggi e se in questo sistema vuoi campare devi inventarti delle cose. Certo, poi io pago i giocatori, se riesco a fare denaro anche in una maniera abbastanza surreale come questa. D'altra parte è già stato fatto questo tipo di esperimento nell'80 a favore delle vittime del terremoto dell'Irpinia, è stata per l'ultima volta nella storia. Questa rappresentativa milanese che giocò contro il Bayern Monaco, c'erano i fratelli Baresi, c'era Beccalossi, c'era Oriali, Altobelli, Bordone in porta, insomma una mista che giocò contro il Bayern di Monaco perdendo per 2-1 per 22.000 paganti, giocata del 17 dicembre del 1980. D'altra parte, io sono con buona pace di Antonio Conte che cerca gli spazi, però io sono il proprietario di un club, ci metto i soldi, ho i giocatori, provo anche questa suggestione per racimolare qualche eurino in più. Non è molto diversa dall'amichevole Milan Real Madrid il 30, il 30 dicembre, esatto, a Dubai. Esatto, non c'è molta differenza. E soprattutto poi il mercato ha una sua democrazia, nel senso che poi se fanno queste cose qui e la gente le va a vedere e si riescono a vendere i diritti televisivi e stanno in piedi, la risposta già te la sei data. Bravo, esatto. La TV commerciale nacque 30 anni fa col Mundialito, no? Berlusconi comprò il Mundialito, che era un torneo con le grandi squadre storiche, era completamente un'altra epoca, nell'81 mi pare, con le grandi nazionali storiche che organizzarono questo torneo. Essenzialmente fu il primo progetto basato sui diritti televisivi, no, venduti nel mondo. Sì. E non è che c'era in palio la Coppa del Mondo, però la gente le partite se le vedeva. E ci fu anche un Milan che schierò per un tempo, per il primo tempo di una partita, Johan Cruyff. Totalmente a fine carriera, però rimane questo ricordo lontanissimo di Cruyff in maglia rossonera che giocò malino, senza strusciare palloni per un tempo. Quindi, sai, queste cose sono già state viste, sperimentate e io non ci trovo niente di blasfemo, se ti devo proprio dire la verità. Pierluigi, ti saluto e ti ringrazio. Grazie a voi, ti do del voi ormai. Baci. Ciao. Facciamo in tempo a parlare con Bruno? Bruno, sì, e poi Marco da Foggia dopo la borsa. Bruno, buongiorno. Ciao Carlo, grazie. Ciao. Per la convocazione. Dimmi. No, a riguardo di Conte, è giusto quello che dici tu, che l'handicap è comune a tutte le nazionali e a tutti i commissari tecnici, vale a dire tutti quanti hanno poco tempo a disposizione. Però, secondo me, una cosa fattibile e seria, la Federazione Italiana potrebbe farla, e vale a dire ridurre il campionato di Serie A da 20 a 16 squadre. Passeremmo da 38 a 30 giornate, magari mantenendo i 2-3 turni infrasettimanali come già ci sono, ed eccoti qua che già trovi due stage all'anno di 10 giorni, che poi più o meno è quello che vuole Conte. Ma mi sembra di capire. A parte il fatto che in tutti i principali campionati europei sono a 20 squadre, però questo non vuol dire che sia giusto. Io condivido il fatto che bisognerebbe ridurre a 16, a 18, come vogliamo, il campionato. non dimentichiamo però che le nazionali sono un meraviglioso e romantico fenomeno anacronistico, quindi una soluzione vera, ma che potrebbe valere per tutti, sarebbe semplicemente quella di Platini, la solita vecchia storia di Platini. Concentriamo l'attività di tutte le nazionali alla fine della stagione, accorciamo, riduciamo i campionati, riduciamo il numero delle giornate, finiamola fuori entro il primo di maggio, mettiamo, e poi usiamo un mese e mezzo, due mesi per l'attività delle nazionali. Questo potrebbe essere un discorso con un senso, e in questa prospettiva poi inseriamo, non solo per Conte ma anche per tutti i suoi colleghi, in funzione di un calendario meno intasato, gli stage che si riescono a produrre e a programmare. Tutti convocati. Non è una giornata diversa perché è l'annuncio ufficiale, ma è da un po' di mesi che era già sicuro, quindi non è niente di chissà, ma certo è un weekend emotivo perché sai che è l'ultima volta che sali sulla Ferrari. Oggi, questa mattina, abbiamo comunicato i meccanici perché sembrava giusto farlo prima loro che comunicato. Li ho fatto vedere il casco che userò questo weekend, un casco con una foto di un pit-stop e poi tutte le firme dall'altra parte, perché gli ho detto che l'ultima volta che salgo sulla Ferrari voglio tutti con me in macchina, perché è stato veramente 5 anni di una grande atmosfera, di una grande famiglia, e penso la Ferrari è così grande grazie alle persone, perché anche adesso, ultima gara con loro, io trovo delle emozioni grandissime e delle cose speciali, quello rende la Ferrari unica. Zero titoli non è un dramma, né per noi né per nessuno. Zero titoli per Alonso credo sia un dramma, 5 anni alla Ferrari, nessun titolo, e zero titoli penso proprio che Alonso abbia pensato a questo nel prendere la decisione per il futuro. A proposito, fantasia dei nostri ascoltatori senza limiti, perché abbiamo parlato di questa ipotetica rappresentativa Milan-Inter, l'idea lanciata da Gagliani e non da noi, sia chiaro, per sfidare miste rappresentative di altre grandi città da derby, da Manchester a Madrid eccetera eccetera. Ebbene, abbiamo alcuni fantasiosi ascoltatori anche sulla Formula 1. Gran premio miglior pilota all'inizio della stagione, cioè febbraio o marzo, 4 gran premi con i migliori 10 piloti con la stessa macchina vincente, magari la Mercedes. Anche questa può essere un'idea, chissà che Eccleston non ci pensi. Marco da Foggia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire, anzitutto, il presidente della Juve farebbe bene di spendere consigli alla sua squadra, visto che a livello europeo di media caratura. Volevo ricordare che abbiamo gli ultimi due mondiali, abbiamo fatto una figura barbina, e invece abbiamo visto cosa hanno fatto Francia, Germania, Olanda e persino il Belgio, che Conte ha in attacco un uomo del Borussia Dortmund e un altro del Sassuolo, che è quintultimo in classifica. Sì. E con i nostri club, con il loro modo di pensare, non vincono nulla. Ecco, ho detto tutto, grazie. Sì. Vabbè, non capisco cosa c'entra Agnelli, a parte che non ha dato nessun consiglio, ha semplicemente espresso una valutazione, cioè ha detto i tempi previsti per la nazionale sono questi ovunque, rispettiamo i calendari, quando c'è da dare i giocatori li diamo. È stata questa la risposta a Conte. Non vedo nulla di scandaloso in tutte e due le posizioni. Conte ha detto delle cose, se vogliamo, anche banali, che tutti conoscevamo, che Prandelli aveva già denunciato, stesse identiche cose che avevamo già sentito. Le ha dette con tono molto concitato, con grande trasporto. Agnelli ha dato una risposta perfettamente in linea con il pensiero delle società, credo di tutta Europa, compreso il Real Madrid, che causa nazionale ha perso Modric per 3 mesi. Felice da Milano, buongiorno. Poi vi faccio sentire un'intervista. Dica, Felice? Ma no, ma è aria fritta, dai, insomma. Cosa? Conte la viene a dire. Conte è un selezionatore, e selezioni, quindi come fanno gli altri selezionatori. E lui cosa ha di più? Che ha più giocatori dove scegliere la nazionale. Così la squadra di club è fatta in un altro modo. Che lui voglia trasformare la nazionale in una squadra di club è una cosa impossibile. Poi che la nazionale sia una cagata, per l'amor di Dio. ci fa quel che si può, ma giusto per usare una parafrasi, eh? Sì, così non devo farti, è sempre tranquillo la nazionale è, come dicevo io, un fenomeno, diciamo che è un fenomeno molto romantico ma un po' anacronistico nel calcio di oggi, dove sono i club che muovono i giocatori, muovono i soldi e muovono il mulino del calcio. Alla nazionale restano questi spazi in Italia come all'estero. Allora, adesso vi voglio far sentire una cosa invece, un'intervista di un grandissimo campione, ex grandissimo campione, realizzata stamattina da Dario Ricci, che parte da un titolo che è questo: Per l'uguaglianza, come cambiare i nostri immaginari. È il titolo del nuovo libro pubblicato per ADD Editore da Lilian Thuram, che tutti conoscete: Juventus, Parma, Barcellona, campione del mondo del 98. Non credo ci siano bisogno di molte parole per presentare Thuram, che da quando ha smesso con il calcio, sapete bene quanto si è impegnato nella battaglia contro il razzismo. Ciò non toglie che anche Thuram abbia detto la sua proprio al microfono di Dario Ricci, proprio sul recente sfogo di Conte e oltre. Lo sentiamo. Penso che le squadre nazionali sono importanti per i giocatori, perché quando giochi in nazionale vuol dire che hai stato scelto fra i migliori del tuo paese, è sempre una cosa molto piacevole. Dopo ci sono delle squadre sicuramente che provano a tenere i giocatori perché dicono che loro pagano, allora devono essere molto più pesanti. Però secondo me sono i giocatori che devono dire che la nazionale è una cosa molto molto più importante di tutto. Ti piace questa Juventus targata Max Allegri? Diciamo che con Conte hanno vinto tanto in Italia e spero che continua. E so che farà un po' più fatica sul piano europeo e spero che quest'anno sarà l'anno giusto. Sempre facendo riferimento alla tua carriera, c'è un Messi che ha ipotizzato anche l'idea di un addio al Barcellona. Tu, che quell'ambiente l'hai conosciuto bene, credi che effettivamente si possa lasciare una maglia di quel prestigio, anche se uno si chiama Lionel Messi, insomma? Ascolta, guarda che il mondo di calcio è abbastanza aperta, perché tante volte pensi che un giocatore non può rimanere tutta la sua vita lì e dopo parte. Guarda che cosa è successo con Alex Del Piero, stiamo parlando della Juve. Io pensavo che Ale finiva la sua carriera e alla Juve e non è stato il caso, allora tutto è possibile. A proposito di rivoluzioni, è tornato sulla panchina dell'Inter, a conferma di quello che dici, Roberto Mancini, nella settimana proprio più calda, perché domenica c'è il derby. Come la vedi questa sfida Inter-Milan tra Mancini e Inzaghi? Pensi che poi queste rivoluzioni portino gli effetti sperati? Ascolta, intanto è una bella cosa, perché Mancini ha una storia molto lunga con l'Inter, è stato già l'allenatore, e dall'altra parte c'è un giovane allenatore che era molto pericoloso sul campo perché faceva sempre tante gol contro di noi, e spero che sarà una bella partita, e spero che le persone non dimenticano che si può amare il Milan senza odiare l'Inter, si può amare l'Inter senza odiare il Milan. Credo che questo è l'importante, che le persone si godono il gioco, e spero che il gioco sarà all'altezza. E questo era Lilian Thuram questa mattina al microfono di Dario Ricci. Thuram che sarà ospite di Olimpia domenica ore 16:30, proprio per parlare di razzismo e discriminazione, che sono i temi a lui più cari. Intanto l'abbiamo sentito a tutto tondo su Conte, sulla Juventus, sul derby di Milano, su Mancini contro Inzaghi, su tutte queste cose. Rimaniamo, Antonio da Napoli, un attimo, rimaniamo in ambito Juventus. Questa mattina, dicevo prima, c'è stata questa conferenza stampa per ufficializzare i rinnovi di Buffon fino al 2017, di Chiellini fino al 2018. Presente anche Agnelli, che abbiamo prima sentito parlare di nazionale. Li sentiamo ora tutti e tre su vari temi. Agnelli, Buffon e Chiellini. Avevo fatto un accenno adesso qui, e più forse, se volete, una battuta al fatto che un giocatore come lui meriti il pallone d'oro. Per quel che mi riguarda, questa storia va ancora avanti. Non si sa, probabilmente potrebbe essere l'ultimo contratto, se no non lo sarà, poi ne guarderemo. Ripenso indietro e insomma penso a tutte quelle persone che in questi 10 anni ormai mi hanno aiutato a crescere, perché sono diventato un uomo in questa città e in questa società. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, in merito alla nazionale, volevo dire, ma come possiamo selezionare una nazionale se le squadre di club hanno il 70, 80, 90% di stranieri? È chiaro che se non si incrementano i vivai e si selezionano degli italiani, per come si fa questa squadra di... come si fa la nazionale? Non le pare? Come fa Conte? Cioè, come fa un qualunque quello che ha. CT, diciamo. Ma guardi che non, io continuo a pensare che non ci sia niente di male, cioè non è che la Croazia, ripeto, che abbiamo ammirato e davanti alla quale ci siamo alzati in piedi domenica sera a San Siro, abbia un bacino di utenza clamoroso, cioè la Croazia ha il bacino di utenza che possiede, è essenzialmente un paese esportatore. Non è che l'Uruguay abbia, che ha fatto gli ultimi due mondiali così come li ha fatti, abbia un bacino di utenza sterminato, e non è che abbia un campionato di eccesso livello, sono paesi esportatori. Secondo me dobbiamo abituarci a delle dinamiche globali, devo dirlo pur odiando questa parola ma così ci capiamo, delle dinamiche globali di impiego dei giocatori. Allora, gli italiani che non trovano spazio in Italia chiudono la valigia e vanno a giocare da un'altra parte. Sono stato sempre in totale disaccordo con Prandelli quando ha chiuso la porta in faccia a tutti quelli che sono andati a giocare all'estero. Questo è incomprensibile, secondo me. Da Crescito a Bocchetti, allo stesso Diamanti, che sia gioca, che poteva essere molto utile al mondiale, si è giocato al mondiale perché ha scelto di andare a giocare in Cina per i suoi motivi, in gran parte legittimi. Secondo me bisogna abituarci a logiche di questo tipo. Allora, i giovani italiani dicono: qua non trovo spazio, invece di lagnarsi e di giocare alla PlayStation, come dice Gianni De Biasi, vanno a giocare in Albania, nel campionato albanese. E i signori della nazionale fanno piacere di tenerli monitorati sotto controllo, di convocarli, di dargli un'occhiata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, dobbiamo davvero abituarci a queste logiche, altrimenti non ne usciamo da questo discorso, che è un po' di retroguardia, a mio parere. Se volete, il mio pensiero è questo qui e non lo cambio. Tutti convocati. Parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il capitano! Lo sai, per un gol io darei la mia vita, che in fondo lo so, sarà una partita infinita. È un sogno che ho. Una partita fondamentale, lo sappiamo, e credo che il Mancio soprattutto è un uomo di esperienza, che conosce molto bene l'ambiente. E sa come preparare questi tipi di partite. Ha avuto poco tempo per lavorare, perché non è che ha avuto tanto, però credo che ci sono i presupposti per poter fare bene. Carica sicuro, però ci vuole del tempo. Il Mancio è appena arrivato, deve conoscere il gruppo. Io credo che soprattutto ho visto grande disponibilità da parte di tutti per poter essere insieme e sapere che qui la unica cosa che ci interessa a tutti è il bene del mondo. Il derby va sempre vinto, pur arrivando quart'ultimi in classifica, quindi anche un gol rubato, fatto con la chiappa al 97esimo minuto, andrebbe benissimo. Però sarà un derby duro, perché anche Inzaghi è bravo. Le due squadre sono tutte e due in crisi, però forse ognuna delle due troverà le risorse per una ripartenza. È chiaro che una delle due vince, non mi aspetto un pareggio. Nero azzurri, io ti seguirò, nero azzurri. allora, prospettiva derby sponda Inter, abbiamo sentito Xavier Zanetti e Iacchetti dall'ex capitano a un tifosone. Voglio farvi sentire un'altra cosa, sempre in chiave derby, quello che ha detto Zeman sui due allenatori, Inzaghi e Mancini. Ma io penso che dovrebbe pesare, nel senso che uno è abituato a guidare squadra, a sapere i momenti, a giudicare i momenti positivi e negativi. Penso che Mancini in questo senso è più avanti. Io so che ha allenato allievi, ha allenato primavera, e quello non è un'esperienza da poter dire è pronto per la Serie A. Sicuramente è un ragazzo che ha grande voglia e che si impegna tanto. Giuseppe Roma, buongiorno. Buongiorno, concludo con le parole di Zeman. Un ragazzo che si impegna e sa giocare a pallone e ha classe da esibire diventa un prodotto o da gestire o da esportare. Il discorso è semplicissimo. Abbiamo una società piena di pappamolle. Nelle scuole superiori i nostri giovanotti spesso e volentieri fanno prima farsi male che stare in piedi. Basterebbe fare il confronto tra le figurine Panini degli anni 70, le figurine Panini degli anni 50 e degli anni 90 e 2000. Si vede già un lineamento, un'antropomorfia completamente diversa nei nostri atleti. La società si è trasformata. Questo non lo so, Giuseppe, questo mi sembra andare oltre, non so se si è trasformata l'antropomorfia, come dice lei. Certamente io vedo pochi ragazzi che fanno sport, ma questi sono discorsi anche un po' datati. Quello che dico io è che bisogna adattarsi ad una logica, alla logica di un mercato aperto, anche perché non possiamo, anche volendolo, chiudere le porte a chi viene da altri paesi europei, perché c'è la libera circolazione dei professionisti. Stiamo parlando di professionismo, e poi io continuo a pensare che, trattandosi di uno spettacolo, al massimo livello di questo spettacolo debbano giocare i più forti, e agli allenatori poco importa, o ai presidenti poco importa, se uno ha il passaporto svizzero o ce l'ha inglese o ce l'ha francese o ce l'ha italiano. Quindi anche i giovani giocatori italiani devono, secondo me, adattarsi ed entrare in questo regime di concorrenza senza richiedere un canale privilegiato e senza ricorrere al protezionismo, perché il protezionismo innanzitutto non fa del bene a loro, non fa del bene alle società, perché abbiamo avuto esempi di protezionismo nei confronti dei giocatori italiani. Mi rifaccio sempre al basket. A un certo punto si è detto: ok, nel roster di 12 giocatori ce ne dovevano essere 3 italiani. Questo cosa ha comportato? Ha comportato semplicemente il fatto che i giocatori italiani tu li dovevi avere, ti costavano il triplo, il quadruplo di tutti gli altri, perché erano sostanzialmente in un regime di cartello, e non sono. E questo non ha portato praticamente a nulla. Semplicemente ha messo al collo della società questo tipo di cappio. Cioè, sei obbligato ad avere giocatori italiani e quindi li devi strapagare. Che poi tu li faccia giocare o non li faccia giocare, questo non cambia nulla. Quindi, ripeto, se uno è un giocatore italiano, ha voglia di fare il calciatore, in Italia non trova spazio per una ragione o per l'altra, va a giocare dove lo spazio lo può trovare, non importa in quale campionato, e i signori che gestiscono la nazionale fanno il piacere di tenere monitorata la situazione di tutti i giocatori che abbiamo esportato, che poi anche qui mi devono spiegare perché Crescito non abbiamo visto ai mondiali, perché Bocchetti è sparito, perché dai radar, perché Santon non lo considera più nessuno, perché Pellè ha dovuto aspettare tutti questi anni per andare in nazionale, perché Diamanti ai mondiali non c'è andato, perché Verratti non è titolare nel Paris Saint Germain, non lo è nemmeno nella nazionale di Conte. Io credo che ci sia una preclusione nei confronti dei giocatori italiani che giocano all'estero. Sinceramente credo questo. Avremo modo e tempo per riparlarne, certamente. Intanto aggiorniamo la seduta, torniamo domani dopo il GR delle 2. Franco Piantanida, il nostro autore, ma Matteo Buonamici, Daniele Buonamici in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Te ne posso andare? No, non la faccio più, già caldo. Allora tu sei The Major? Io ero The Major. Perché ne sei uscito? Allora ero un cavallo pazzo. L'ultimo match in cui sono andato era Millwall West Ham. Stiamo parlando di 10 anni fa. Eravamo fottutamente su di giri fin dall'inizio. C'era Tommy Hatcher, il loro leader fin da allora. portava il figlio dodicenne agli scontri, Tommy Junior, non faceva che vantarsi di crescere suo figlio come un piccolo pitbull. Beh, abbiamo perso il match, 3-0, e quegli stronzi del Mewall cominciarono a riderci in faccia. E io non ho retto. Insomma, non potevo lasciar stare, capisci? Così ho radunato tutte le nostre truppe e gli abbiamo dato la caccia. Ho visto il ragazzo cadere a terra. Tommy! No! E ho visto il suo cranio schiacciato dagli stivali dei GSI. Non sono più andato ad un altro match dopo quella volta. E mi sono lasciato The Major alle spalle.